Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, è il giorno del Rien ne va plus, evidentemente, ma per l'Italia, non per la Francia, che invece è appena tornata da poco a Parigi e stanno cercando i giocatori di disperdersi senza nemmeno uscire dall'aeroporto, imbarcandosi su voli che riportino in destinazioni vacanziere senza passare per la folla che li sta aspettando, non propriamente con intenti pacifici, anche se spero e mi auguro che non si arriverebbe poi a nulla di violento. La nazionale invece, la nazionale italiana, in questo momento è in viaggio verso Johannesburg, dove tra meno di due ore ormai si gioca la partita decisiva contro la Slovacchia. È cambiato ancora qualcosa in attacco stamane, stando alle ultime notizie. Sentiamo se per caso Lippi, nell'intervista di pochissimo fa al TG1, quella istituzionale, lo ha rivelato, e se no poi ve lo dico io sulla base delle indiscrezioni che sono arrivate nel frattempo. Lippi. La spiegazione di Lippi è quella che cerca di sfruttare tutte le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione, tutto qua. Io sono 4 anni che sono con la nazionale, ho avuto tante di quelle soddisfazioni fantastiche, io tutto quello di bello che ho a disposizione per cercare di regalare gioia anche agli altri, ce l'ho. Da italiano mi piacerebbe che ci fosse una maggiore complicità. L'Italia è un paese dove ci sono grandi qualità, addirittura ci sono delle eccellenze in tanti settori, ma non c'è nessunissima voglia di cooperazione. Ognuno vuol fare per i cavoli suoi, poi quando cominciamo a parlare di divisioni, allora sì che mi piacerebbe un po' più di complicità per gli italiani, è sentirsi più italiani, più uniti, più compatti e più vicini. Oggi dovrebbe essere così, in linea di massima perlomeno, a parte il fatto che poi qualsiasi sia l'atteggiamento degli italiani in patria, a parte i tifosi che saranno a Johannesburg, tutto dipende da quegli 11 più 3 che andranno in campo e non tanto per l'appunto dai comportamenti di casa. Diceva che è cambiato qualcosa in attacco, stando alle ultime notizie, perché si è tornati all'idea originaria di ieri, probabilmente, per cui il tridente d'attacco sarà Pepe, Iaquinta e Di Natale. Pepe, Iaquinta e Di Natale, se Franco Piantanida ha fatto i suoi conti esattamente, hanno giocato insieme qualche partita nell'Udinese nella primavera del 2006. Perché? Perché insomma, la curiosità è questa: in realtà oggi è Udinese-Slovacchia la partita del pomeriggio, perlomeno per quanto riguarda l'attacco italiano, nel senso che Di Natale e Pepe Quagliarella hanno giocato insieme dal 2007 al 2009, e ricordo che Quagliarella è il primo cambio ed è stato in ballottaggio con Pepe fino a poche ore fa. La coppia Iaquinta di Natale ha giocato sempre nell'Udinese nei campionati dal 2004 al 2007, quando nella prima, insomma, col mercato di gennaio del 2006 l'Udinese prese Pepe, mi pare di ricordare, al Palermo, raggiunse Iaquinta di Natale, che c'erano ancora. Iaquinta poi sarebbe partito nell'estate per la Juventus, e quindi giocarono insieme in quel campionato. Pepe ha 6 presenze, è ragionevole pensare che almeno qualcuna di queste l'abbia fatta insieme a Iaquinta e Di Natale. Continuiamo con Lippi ripassando alcune delle sue dichiarazioni di ieri. Poi, come sempre, il programma di oggi si articola con il collegamento da Sudafrica per le ultime tra poco con Fabio Tavelli, e poi tutti i vostri interventi incentrati, credo, sull'imminenza di questa partita decisiva, ma anche sulle emozioni che ci ha regalato la giornata di ieri, perché non c'è nessun dubbio che sia il pomeriggio che soprattutto la sera le emozioni non siano mancate davvero. Lippi, a proposito delle critiche. La squadra non deve rispondere alle critiche esterne, le deve valutare, le deve considerare, perché fanno parte del nostro lavoro, ci mancherebbe. Ma non deve rispondere, la squadra deve rispondere alle cose che diciamo tra di noi, non al parere di uno piuttosto che un altro, piuttosto che di un altro ancora. Deve tener conto delle valutazioni che si fanno all'esterno, le deve accettare, ma deve lavorare su quello che diciamo noi, non su quello che arriva dall'esterno. E su quello tutti ci stiamo rendendo conto di quello che vogliamo fare sul campo, e la voglia di farlo anche durante l'allenamento magari è importante. e poi deve riuscirci di farla anche sul campo, sempre di più, ma può arrivare da un momento all'altro, quello che stiamo cercando può arrivare da un momento all'altro. La SNAI ha ritarato le sue quote, adesso le due vincenti dei mondiali sono Argentina e Brasile alla pari e sono date a 5, la Spagna è a 6, l'Olanda e l'Inghilterra sono a 10, la Germania a 11, l'Italia a 18, l'Uruguay a 22, il Portogallo a 25, segue il gruppo. Altre notizie che arrivano da laggiù? No, per la verità c'è un retroscena gustoso che ha raccontato stamane Alessandro Costacurta sul Sole 24 Ore, perché si continua a parlare della terza partita di Spagna 82. Un altro buon parallelo, forse ancora più sintonizzato, potrebbe essere quello di USA 94, quando Costacurta era uno dei protagonisti di quella vigilia della terza partita con il Messico. L'Italia aveva perso la prima dall'Irlanda, ha vinto la seconda con la Norvegia, doveva ad ogni costo battere il Messico, non lo batté, ma grazie a quel pareggio passò come una delle migliori terze. Allora c'era una formula abbastanza risibile che però in quella circostanza servì come all'Italia, e gli è stato chiesto come visse quella vigilia, e allora lui racconta: dopo la cena serale era abitudine di Sacchi passare dalle camere per ripassare gli schemi e percepire la condizione mentale dei giocatori. Quella sera, vigilia d'Italia-Messico, l'allenatore trovò tante camere buie con giocatori che facevano finta di dormire pur di non ascoltare per l'ennesima volta le raccomandazioni sentite tante volte. Pareggiammo e passammo come una delle migliori terze, ma la tensione di quella vigilia Sacchi non ce la fece poi più provare. Questo avversario di oggi, la Slovacchia, è discretamente misterioso, nel senso che noi conosciamo Hamsik, visto che gioca nel Napoli dopo aver militato nel Brescia, ma non abbiamo grandi nozioni di una nazionale comunque di abbordabile portata. Sentiamo che cosa ce ne racconta Lippi. Ce l'aspettiamo per come ha giocato in queste due partite, per quelle che sono le caratteristiche. La Slovacchia è una squadra che ha degli attaccanti molto veloci, molto abili, che alternano molto frequentemente la posizione, e perciò questo l'abbiamo visto in diverse gare, comprese queste due. Non penso che stravolgeranno il loro modo di giocare. Loro sanno che hanno un solo risultato a disposizione per rimanere in gara e cercheranno tutte le maniere di farlo. Noi non stravolgeremo niente, cercheremo di far meglio in fase offensiva di quello che abbiamo fatto fino adesso, e cercheremo di fare ancora quello che abbiamo fatto fino adesso in fase difensiva, magari con un pochino più di attenzione ai cross da lontano. Beh, i propositi sono buoni, adesso resta da vedere se tra un'ora e tre quarti verranno messi in pratica. Collegamento con lo studio centrale di Sky Sport 24 a Johannesburg, dove c'è come sempre Fabio Tavelli. Fabio, buondì. Buongiorno a te Gigi, buongiorno a tutti. Che giornata è da un punto di vista atmosferico a Johannesburg? Bella. Bella. Bella, c'è un bel sole, meno caldo di ieri, dico caldo sempre parametrato dal fatto che insomma siamo in inverno, però insomma io in questo momento sto in camicia fuori e sto fermo, cioè se non tira vento si sta bene. C'è anche gente che si è sdraiata in giardino, qua c'è un bel giardinetto, a prendere un po' di tintarella. Ovviamente è una tintarella tra virgolette di montagna, visto che comunque l'altitudine è notevole. Se tira un po' di vento, il vento non è caldo e rende meno piacevole star fuori con la camicia o condizioni con la giacca. L'Italia gioca alle 4, lì cambierà un po', perché comunque qui tramonta abbastanza presto, quindi giocheranno sotto i riflettori e cioè, intorno alle 5 è buio pesto, quindi farà un po' freschetto, però i giocatori saranno già belli caldi a quell'ora. Sì, non c'è dubbio. E comunque condizioni ideali, direi, per una partita di... Beh, molto diverse da quelle di Cape Town, direi, perché qua Cape Town hanno preso tanta di quell'acqua e oggi non la prendono di sicuro. Qui non ha mai piovuto, non è mai scesa una goccia. Devo dire che solo il giorno dell'inaugurazione c'era un minimo di nuvola, ma poi per il resto non le abbiamo proprio mai viste le nuvole. Tutto pronto per i sorteggi di stasera? No, perché no, nel senso che io sono anche un po' combattuto, perché sono molto vicino al Soccer City Stadium. Io, guarda, ti dico, vedo la fine del primo tempo. Se alla fine del primo tempo c'è ancora un po' di equilibrio, prendo e vado direttamente in sala convegni, perché come al solito non succede, ma se succede è meglio essere pronti. Comunque è alle 19, quindi avremo tutto il tempo per allestire la diretta. Già mi immagino cosa potrebbe succedere. Cosa potrebbe essere? Speriamo di non arrivare a tanto. È un'ipotesi che è stata sino a qui scongiurata negli altri gironi, perché poi in maniera anche romanzesca sono arrivati verdetti più chiari. Quello di oggi, indubbiamente considerata la fatica che fanno a far gol italiani, neozelandesi, considerato l'incrocio di partite, poi non succederà, ma in effetti sembra un tantino più plausibile nella sua improbabilità. Torniamo a ieri, perché mi pare che tra il gol di Donovan all'ultimo minuto, l'errore di Pantelic all'ultimo minuto, che avrebbe invece qualificato la Serbia con una palla a porta vuota che bastava lasciar scendere qualche centimetro in più, più varie ed eventuali, mi sembra che le emozioni non siano mancate davvero. Guarda Gigi, questo credo avvalori quello che dicevamo ieri, perché questo è comunque un bel mondiale, perché è un mondiale equilibrato. Io ieri ero allo stadio da turista a vedere Germania-Ghana e gli ultimi 20 minuti la gente non faceva altro che cercare notizie su Australia-Serbia, giravano le notizie più disparate. Quando qualcuno ha detto 2-0, cioè 2-0 per l'Australia, molti tifosi ghanesi non ci credevano, quelli che erano almeno davanti a me, evidentemente nessuno aveva semplicemente avuto l'idea di farsi mandare dei messaggi o quant'altro, e quindi ripeto, circolavano le notizie più disparate. Questa era vera. Il gol di Donovan ieri credo che sia una favola da questo punto di vista, una favola brutta, quindi un incubo per gli sloveni che invece credevano di passare insieme agli inglesi. Ma poi tra l'altro tutta quella partita, io le ho praticamente viste su due monitor diversi, tutta quella partita tra Algeria e Stati Uniti è stato un continuo ribaltamento. Gli americani hanno sbagliato 4-5 gol pazzeschi, sì, gli algerini hanno preso un palo. Già sul gol di Donovan è nato da un ribaltamento di fronte. Gli Stati Uniti erano fuori e nel giro di pochi secondi sono diventati addirittura primi. E tra l'altro infilandosi in una parte di tabellone molto gradevole, se mi passi il termine. Come no? Davvero, cioè siamo come nei playoff, insomma, con partite già decisive. Gli ottavi di finale di fatto sono già iniziati. Tra l'altro sono i mondiali appunto emozionanti, ma sono soprattutto i mondiali sino a qui molto corretti dal punto di vista dei comportamenti. Avevamo detto l'altro giorno che l'Uruguay, giocando per vincere contro il Messico e poi vincendo, aveva dato prova di grande correttezza sportiva, ma in fondo l'Uruguay giocava anche per sé, nel senso che gli bastava il pari, ma vincendo sarebbe stato sicuro del primo posto. Ma l'Australia, che ieri aveva una missione impossibile perché o vinceva con 5 gol di scarto o tornava comunque a casa, l'Australia che gioca a quella maniera e batte la Serbia, che invece fino a ieri era delle tre in lizza, Serbia, Germania e Ghana la favorita, o comunque quella che in teoria rischiava di meno, la Serbia ha dato una lezione di sportività che poi magari anche da queste parti, no? Se qualcuno ogni tanto volesse tendere l'orecchio o provare a tenerne conto. Sì, l'Australia ha dato una grande lezione, la Serbia ha confermato invece una dabbenaggine davvero ormai storica, no? Perché comunque si sono separati non da troppi anni. Però io mi ricordo la Croazia nel 2015, sì. Gigi, lo ricordi anche tu. Sì. La Croazia ci batté l'Italia nella seconda partita, giocava contro l'Ecuador già eliminato, l'Italia giocava contro il Messico, l'Italia va sotto 1-0, la Croazia riesce a perdere quella partita con l'Ecuador e si sarebbe qualificata. L'Italia poi pareggia con Del Piero al gol di Borgetti, ma cioè la Croazia, ti ripeto, bastava battere l'Ecuador e quella partita l'ha vinta l'Ecuador 1-0. Sì, quindi sì. È davvero clamoroso come nel calcio, perché in altri sport invece serbi e croati vanno come dei treni, come nel calcio loro falliscano regolarmente quando hanno il match point proprio sulla racchetta, con una volée facile. Prendo una metafora tennistica, perché questa mattina qui a BBC, Gigi, non si parla d'altro che di quella partita di Wimbledon che è 59 pari al quinto set. Lo credo, ma lo spirito di quella partita di Wimbledon, secondo me, è, cioè, o vogliamo fare gli scettici blu ad ogni costo, e allora questi due si sono messi d'accordo. Stamattina non l'ho letto, per carità, ma insomma è adombrato da un paio di parti che questi due abbiano deciso di passare alla storia. Non ci credo nemmeno, no, nemmeno se mi pagano. Sette ore 7 ore il quinto set. Esatto. Non, cioè, questa è una lezione di sport che si ricollega molto bene a quella dell'Australia, secondo me, perché questo è il vero primato dello sport, no? che ogni tanto riprende, fa fatica, ma riprende il primo piano rispetto al business, intendo. Guarda, non c'è dubbio, io veramente mi piacerebbe invitare quelli che vanno allo stadio con le catene, quelli che vanno allo stadio con i coltelli, quelli che vanno allo stadio per far del casino, che venissero una volta a vedere una partita del mondiale. Poi intendiamoci, adesso domenica c'è Germania-Inghilterra e quindi potremmo venire spazzati via, quello che stiamo per dire. Però anche ieri sera, cioè, io ho visto la partita davanti a un gruppo di ragazzini sudafricani che avevano la bandiera della Germania. E nel primo tempo inneggiavano la Germania, poi non so perché nel secondo tempo tifavano Ghana. L'ho trovata una cosa sconvolgente, ma ti assicuro, poi molti vengono allo stadio vestiti in maniera assurda, sembra di stare a carnevale, le vuvuzela danno fastidio, non c'è una tifoseria organizzata e quindi si tifa un po' tutti a caso, perché comunque i posti allo stadio vengono, cioè non c'è una curva dei tifosi tedeschi, una curva dei tifosi ghanesi, sono tutti mescolati. Ed è bellissimo, cioè è veramente bellissimo. Facciamo una proiezione ben augurale, nel senso che supponiamo che l'Italia si qualifichi e si qualifichi, io dico partiamo prima da si qualifichi da seconda, perché mi sembra l'ipotesi più realistica, poi facciamo anche l'altra. Ho sbagliato i conti insieme appunto qui agli amici di redazione, oppure se l'Italia passa da seconda si becca l'Olanda negli ottavi e quasi certamente il Brasile nei quarti? Sì, questa è la previsione più logica e normale, quindi se l'Italia arriva a seconda va a prendere la prima del gruppo dell'Olanda, che sarà l'Olanda appunto, e se il Brasile passerà il suo ottavo di finale andrà nel quarto contro, certo, quella accoppiata teorica Olanda, tra Olanda e Italia, quindi il percorso diventa molto in salita. Questo però più o meno l'avevamo immaginato quando c'era state le trazioni dei gironi. C'è un girone molto facile, il primo, però poi una parte di tabellone molto complicata, quindi certamente da evitare. Certo, qual è stato il problema? Che del girone molto facile l'Italia non ha approfittato. E non ancora, vediamo fra 3-4 ore. Ma non è più padrone del suo destino, perché per carità, batte la Slovacchia e fin qua ci siamo, però se il Paraguay nel frattempo vince a sua volta con la Nuova Zelanda, ecco che il Paraguay comunque è primo, in questo dico l'Italia non è più padrona. La frase, la locuzione padroni del proprio destino è quella, è la scusa che viene utilizzata dai deboli quando si sono complicati la vita. Del tuo destino sei padrone sempre. Se sei in queste condizioni è anche per colpa tua. Perché te la sei giocata male. A Nuova Zelanda. Quindi piano con lo scaricare le responsabilità, io dico, non l'ha scelto, non l'ha deciso nessuno che il Paraguay fosse avanti all'Italia in questo momento. Quindi l'Italia deve battere la Slovacchia e passare il turno. E poi quello che faranno Paraguay e Nuova Zelanda saranno fatti loro. Certo. Detto questo, cioè l'Italia non fa un'impresa né se lo vince né se passa al secondo posto, no, il girone, no, fa una no, roba normalissima. Proprio fa il minimo sindacale, no? Che mi sembra un'espressione perlomeno in Italia discretamente di moda in questi giorni. Peccato, perché se l'Italia riuscisse a ribaltare questa situazione si giocherebbe l'ottavo contro la Danimarca nel 90% delle probabilità e poi contro il Portogallo il quarto di finale, che per carità è già una squadra di ben altro spessore rispetto a quelle viste fino ad ora. Però insomma avrebbe una sua abbordabilità. Fabio, stiamo. Pensi, Gigi, che nel mondiale del 2006 abbiamo affrontato l'Australia negli ottavi e l'Ucraina nei quarti. Certo. Vuol dire, cioè, vincere il mondiale a volte ti comporta di, come nell'82, di giocare con Brasile e Argentina dopo il primo girone in un gironcino, oppure di avere una discreta autostrada. Adesso si è creata un'autostrada forte nella parte alta del tabellone, nel gruppo a sinistra, quella dove ci sono gli Stati Uniti, il Ghana, certo, e quant'altro. Lì c'è una bella discesa. Ghana, Stati Uniti, Corea del Sud e un'altra che in questo momento mi sfugge. Uruguay. Beh, no, l'Uruguay di questa è la più rognosa, però insomma di autostrada in piena regola indubbiamente. Beh, una di queste quattro va in semifinale. È in semifinale, quindi pensa un po'. Non solo, ma una di queste quattro è in semifinale, credo, dalla parte dell'Italia, se l'Italia dovesse davvero restare seconda oggi. Il problema è che bisogna prima battere negli ottavi l'Olanda e nei quarti il Brasile, fermo restando che nel frattempo bisogna battere la Slovacchia, ormai manca un'ora e mezza o poco più. Grazie a Fabio Tavelli. Buona partita a tutti, ciao Gigi, a domani. Sto aspettando che riprenda questo match interrotto ieri a Wimbledon per l'oscurità di cui si parlava prima, match insomma, che è già nella storia, no? Non per i nomi dei protagonisti, perché sono un francese, ma io e uno statunitense, Isner, e non sono due, sono due bei giocatori, se no giocherebbero a Wimbledon evidentemente, ma insomma non sono certamente due campioni, tantomeno il francese, ma insomma, essere 59 pari al quinto è veramente qualcosa di, se uno ci pensa. Vuol dire veramente che c'è un forse anche un pizzico di follia insieme a una voglia smisurata di non arrendersi, che dovrebbe essere davvero l'essenza dello sport, che ripeto nel calcio ieri ha trovato questa sintonia con il comportamento degli australiani. Poi qualcuno mi fa notare per iscritto, per esempio Sergio, leggo questo messaggio, che squadre come gli Stati Uniti e soprattutto l'Australia sembrano atleticamente superiori. Sono atleticamente superiori anche perché, insomma, per loro va sparato tutto nella prima fase o poco più, insomma, non pensano di arrivare in fondo, e quindi è ovvio che danno tutto subito per cercare di superare perlomeno il primo ostacolo, ma questo è sempre stato nei mondiali. Invece non era mai accaduto davvero che un match arrivasse a 59 pari e avesse bisogno di interruzione per l'oscurità dopo la bellezza di 10 ore di battaglia. Angelo ha chiamato dalla provincia di Bergamo. Buongiorno. Grazie, buona giornata. Dica. Dunque, io volevo chiederle proprio a lei, Gigi, no? Questa Italia che ci sta facendo tanto soffrire, lei cosa ne pensa? Può darci delle gioie oppure siamo così veramente scarsi come stanno dicendo un po' di persone? Ma insomma, così scarsi non direi, grandi gioie nemmeno. Io credo che i miracoli si insomma, avvengano una volta sola, insomma, che i miracoli non si ripetano. Il Mondiale 2006 era stato qualcosa di non molto diverso da un evento miracoloso, perché anche allora, cioè allora c'era una squadra più forte, c'era una difesa più forte, più giovane, c'era un centrocampo più forte, più giovane, c'era un attacco praticamente scarso come oggi, ma comunque con qualche risorsa in più. Oggi quella squadra è semplicemente più vecchia di 4 anni e i giovani non è cresciuta nel frattempo una nuova generazione in grado di prendere il posto di quelli, no? O comunque dei combattenti reduci. Per cui credo che non ci sia da farsi grandi illusioni sulla prospettiva. Poi quello che è giusto ricordare, che Lippi non perde occasione, su cui secondo me ha ragione, che non bisogna mai sottovalutare lo sblocco mentale di una squadra che abbia grandi tradizioni di spirito di squadra. Lo si è visto in parte già ieri con l'Inghilterra. Cioè l'Inghilterra, che aveva giocato contro l'Algeria, non era soltanto impresentabile da un punto di vista tecnico o tattico, ma era una squadra paralizzata dalla paura di sbagliare, lo si vedeva. Ieri lo è stata ancora in parte per una ventina di minuti. Quando ha segnato il suo gol Lonzo, perché insomma il portiere dell'Udinese Andanovic poteva far di meglio, e il marcatore, cioè il centrale difensivo, poteva fare ancora di meglio. E insomma, quando l'Inghilterra è andata in vantaggio, l'Inghilterra si è sbloccata mentalmente, lo si è visto bene, no? Nel senso che dopo ha giocato, poi non ha fatto nulla di trascendentale, ma rispetto alla partita con l'Algeria sembrava davvero un'altra squadra. E quindi non va sottovalutato quella possibile conseguenza, quella possibile svolta anche per quello che riguarda l'Italia, senza illudersi. Andrea, Reggio Emilia. Buongiorno. Dica. Grazie per avermi richiamato. Ma io volevo dissentire in merito a quanto è stato detto dal suo ospite precedentemente sul tifo organizzato. Sì. Non perché sia tifoso di quelli, chiamiamo i doc, ogni domenica allo stadio, ma soprattutto qualche anno fa andavo parecchio allo stadio, ero uno di quelli che al mattino, presto anche, di domenica mattina, andava a organizzare quelle che erano le coreografie. Il tifo organizzato fa parte della storia del calcio e in ogni caso dà, secondo me, un grosso valore in più a quello che è il calcio. Poi ci sono gli imbecilli, che sono un'altra cosa, non possono essere neanche denominati come tifosi organizzati, sono imbecilli, punto e basta. La cosa che dispiace più di tutti, e soprattutto l'ho notato in occasione del percorso che l'Inter ha fatto quest'anno nella Champions, è quando la televisione, in particolare quella pubblica, non rende neanche omaggio alle tifoserie facendo vedere le coreografie che vengono organizzate in giorni, giorni, giorni di lavoro, facendo magari vedere uno spot da 3 secondi per quello che è stato fatto. Ecco, lì si creano più problemi che non organizzare il tifo. Se hanno fatto togliere gli striscioni, non si possono portare dentro i bastoni per le bandiere, non si può fare questo, non si può... stanno limitando in tutto quello che è il tifo organizzato, il che se ne dica, lo stanno limitando, lo stanno, non dico uccidendo, ma lo stanno soffocando, perché tante cose non si possono più fare, cose che si facevano fino a 5 anni fa non si possono più fare. Andrea, ma lei pensa che la frase che lei ha pronunciato prima, tutte le cose che si fanno in ore e ore e ore di lavoro, cioè lei pensa che abbia un senso una cosa del genere? Cioè lei pensa davvero di svolgere una funzione sociale in questo? No? Cioè lei pensa che ci sia un valore aggiunto davvero a una partita se c'è una coreografia? Fa parte dello spettacolo, penso proprio di sì. È una delle componenti belle del calcio. Sì, nel calcio inteso come spettacolo. Se il calcio è inteso come calcio, cioè a me avanza che giochino bene in campo e che siano corretti in campo, sinceramente. Poi che ci sia una cornice di pubblico, sì. Più che poi questa cornice di pubblico sia meno o meno organizzata, le sembra così rilevante? Ma lei avrà un hobby nella vita, immagino, no? Ma tanti. Ecco, il suo hobby per lei può essere una cosa importante, per me no. Per molti di quelli che vanno allo stadio e per molti che guardano la partita, avere il tifo, la coreografia, un'organizzazione, una sorta di spettacolo, non uno spettacolo, è anche bello. Io non condivido il fatto che bisogna fare chissà che cosa, però c'è gente che lo mette come passione, come hobby, quella tifoseria. Sì, sì. No, ma io, per carità, è molto rispettabile, intendiamoci, lei ha spiegato bene prima quali siano le distanze che vanno prese e che non devono mai accorciarsi rispetto a chi invece poi fa la stessa funzione, cioè prende il calcio a pretesto per fare invece qualcosa di molto più violento. Ma io non smetterò mai di pensare che i germi del protagonismo che poi sfociano in atti di violenza nascano anche nella tifoseria organizzata, che corretta, intendo dire, perché poi sono le poi qualche degenerazione prima o poi arriva, sono punti di vista, evidentemente. Le coreografie in Sudafrica, per esempio, quelle di cui parlava Fabio Tavelli, sono bellissime in questi giorni, sono spontanee, però non c'è nulla di organizzato, e la tesi di Tavelli era questa ed è assolutamente la mia. Sono laggiù, fanno festa, hanno le trombe piuttosto che le bandiere, i volti dipinti piuttosto che cos'altro, non c'è nessuno che si è occupato di organizzazione, che ha sprecato ore di lavoro. Ho investito, per carità, non volevo mancare di rispetto, ho investito ore di lavoro per questo e lo spettacolo è molto migliore. Giorgio Prato, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini. Dica. Guardi, io, siccome questa credo che sia una nazionale proprio per sua struttura congenita, no? Diciamo monotona, una squadra priva di fantasia, dove mai nessuno salta l'uomo e per creare la superiorità numerica, e quindi di conseguenza fa una fatica enorme a creare occasioni da gol, come tutti vediamo, no? Io penso che potrebbe essere una cosa utile sfruttare un minimo di più le fasce laterali, provando ad arrivare sul fondo e a mettere qualche pallone in mezzo. E allora, proprio per questo, a me sembra un errore non utilizzare, anche tenuto conto che un giocatore poco esperto a questi livelli, non utilizzare un giocatore come Maggio, perché fossi io in questo caso il commissario tecnico, io penserei di mettere Maggio sulla destra e spostare eventualmente Zambrotta sulla sinistra al posto di Criscito, perché a me sembra che Criscito a sinistra più del suo compitino non sia in grado di fare, mi sembra che lo faccia pure timidamente, mentre Maggio sono convinto che a destra darebbe una spinta superiore e che qualche volta qualche pallone interessante o per Gilardino o per Pastini o per chi riuscirebbe a metterlo in mezzo sicuramente più di quanto riesce a fare Criscito sulla sinistra. Grazie. Grazie Giorgio, ma la mia opinione è che di fenomeni non ce n'è né là né a casa, e che evidentemente, dato che i palloni nel fondo, insomma, lo sappiamo un po' tutti, no? Che sono i palloni più interessanti per gli attaccanti, se schiera questi è perché, insomma, ha la sensazione che che da questi possa arrivare qualcosina in più che dagli altri, magari sbagliando, questo è sempre possibile. Dunque questi due stacanovisti di Wimbledon giocheranno sul campo numero 18 dopo la partita della Pennetta che sta cominciando adesso, e quindi augurando alla Pennetta di vincere e di sbrigare abbastanza in fretta la pratica, insomma, questa maratona non riparte. Poi magari finisce in due game, perché è bello anche quello, ormai sono 59 pari al quinto, quindi non è poi detto che rifacciano altri 118 giochi, e magari ne bastano due. Sentiamo cosa ha preparato oggi per il 24 giugno, che cosa ha preparato oggi Nicola Filippone. Sembra ieri. 24 giugno 1950. Stadio Maracanã di Rio de Janeiro. La prima edizione dei mondiali del dopoguerra si apre con Brasile e Messico. I padroni di casa dominano e danno spettacolo, entusiasmando il pubblico. Il 4-0 finale porta le firme di Ademir, a segno due volte, Jair e Baltazar. Il cammino mondiale del Brasile proseguirà fino a un passo dal successo finale. Nella gara decisiva contro l'Uruguay, il 16 luglio, il pubblico del Maracanã assisterà a quella che è tuttora considerata la più cocente delusione nella storia del calcio verde-oro. Molto vero, scrive Claudio Signore a Trieste: non credo al fattore C nella vita, figuriamoci nel calcio, ma come non notare che mentre l'Italia dopo due pareggini ha buone possibilità di passare, anche come prima, il Cile dopo due vittorie convincenti ha forte rischio qualificazione, ha ragione Claudio Signore, perché effettivamente è così, l'Italia fa fatica a passare da prima, però ce la può ancora fare. Il Cile, se perderà la Spagna, con 6 punti è a casa, e questo sarebbe abbastanza sorprendente. D'altra parte, nei gironi in cui c'è la squadra che finisce a 0 punti, questo può accadere. Giuseppe Bergamo, buongiorno. Buongiorno Garanzini, salve. Dica. Ancora tutt'oggi mi chiedo che cosa abbia fatto di male per Rotta. Vabbè, non lo sapremo mai. Una cosa che volevo chiedere: lei l'altro giorno, per quanto riguarda un ascoltatore che diceva al posto della monetina di far passare chi aveva ricevuto meno cartellini gialli e cose varie, rispose di no, perché se si incontra il moreno, diciamo, del momento, si rischia di andare fuori senza motivo, cioè per colpa di un altro, per poi tre minuti dopo dire che la formula del mondiale non le piace, perché vorrebbe un'eliminazione diretta già subito. Certo. Se si incontra anche lì un moreno della situazione, con questa formula perlomeno c'è la prova del 3, diciamo. La prova del 3, che però si presta a questa, cioè che diventa questa noia, no? Ma non c'è incoerenza tra queste due cose, Era per capire, perché visto che in un modo si dice sì, però se l'arbitro ci mette lo zampino, però nell'eliminazione diretta... momento, io non intendevo dire che tu trovi un arbitro che ti frega, io te devo dire i parametri arbitrali sono diversi di severità, questo intendevo dire, cioè abbiamo visto arbitri, per esempio un arabo ben presente, che è quello che ha espulso lo svizzero Berami, arbitri che applicano molta severità e ammoniscono se respiri forte. Ci sono arbitri invece di esperienza più collaudata, soprattutto europea, che ammoniscono raramente, cioè solo quando è strettamente necessario, solo quando è giusto. Allora, se ti capita, se tu basassi stupidamente sul numero di cartellini dati o cose il passaggio in una qualificazione, avresti un parametro troppo soggettivo. Il parametro dell'eliminazione diretta, Giuseppe, è il più oggettivo che esista, perché vince. Cosa c'entra l'arbitro? Vince chi è più bravo, no? Vince chi vince la partita, o no? Invece di fare questa manfrina, e facevo il parallelo con la Champions League. Se poi parliamo di, non di diritti televisivi, intendiamoci, ma di minimi garantiti per le squadre che partecipano, allora è tutta un'altra storia. La mettiamo sul piano economico. E va bene, ma se la mettiamo sul piano sportivo non mi vorrà paragonare l'emozione che si ricava da una sfida a eliminazione diretta a quella che si ricava da una partita di girone, e la riprova ce l'avrà da sabato in avanti, da quando cominciano gli ottavi gli ottavi di finale, le sembrerà che cominci in quel momento il vero mondiale, esattamente come tutti gli anni a febbraio sembra che cominci in quel momento la Coppa dei Campioni. Fulvio Napoli, buongiorno. Buongiorno a lei, Garanzini. Dica. Le faccio una domanda e le chiedo, ma lì fino alla querela, anzi un po' prima, volevo dire, secondo lei cosa c'è sotto alle convocazioni di Lippi? Come ha fatto a portare, alcuni nomi a caso non me ne vogliano, cosa come c'è ha fatto sotto? A portare Cranesi, come ha fatto a portare due giocatori normali come Marchisio e come Pepe? E come fa, però qui sono di parte perché sono di Napoli e tifo per il Napoli, come fa a mettere Camoranesi e non schierare Maggio, la migliore ala destra del campionato? Fulvio, è un problema di classe internazionale, oppure se vuole tiriamo un po' giù le parole, è un problema di esperienza internazionale. Quanti ne abbiamo visti che sono abituati a giocare a certe ribalte, che sono, per carità, sembrano più forti, non parlo di Maggio, parlo in generale, sembrano trascinatori, irresistibili, non li ferma nessuno, eccetera. Poi arrivano in campionato nazionale dove il livello sale qualitativamente e tutto quello che di buono riuscivano a combinare, no, perché c'è il salto di categoria vera e propria. Camoranesi, che io sinceramente dopo quei 20 minuti della prima partita avrei ringraziato per l'impegno e avrei poi lasciato dove stava, Camoranesi però questo salto non lo patisce, può patirlo ogni tanto se gli sbrocca, no? Se gli parte la brocca, questo è un altro discorso dal punto di vista disciplinare, ma il salto di categoria non lo patisce e quindi immagino che proprio sapendo di avere una squadra tutto sommato abbastanza mediocre o comunque certamente non irresistibile, Lippi abbia preferito privilegiare l'esperienza rispetto alla freschezza. Magari la pagherà, ma non è poi una scelta così cervellottica a parer mio. Gerardo Padova, buongiorno. Buongiorno signor Garantini, dica. È un piacere ascoltarla. Grazie. È un piacere parlare con lei. Io invece difendo Lippi, secondo me questa nazionale rappresenta la mediocrità del nostro campionato, fenomeni non se ne sono stati a casa. Io nel caso estremo dovessi uscire con la Slovacchia o più tardi con l'Olanda, che le nostre società più finanziariamente sui giovani sono italiane. Questo è il nostro vero problema, il fatto della nostra storia. Non ci sono altre cause di questo disastro sudafricano. Volevo sapere cosa ne pensava. Ne penso poco perché ho sentito molto poco, perché l'audio era un po' disturbato. Se non ho capito male, mi corregga se sbaglio, se è ancora in linea, se non ho capito male, sono le grandi squadre che non sono più fornitrici ad alto livello di grandi giocatori italiani, è giusto? Sì, portiamo tutto sugli stranieri. Certo. Certo. Ovviamente più portiamo i giocatori del Cagliari, non che sia una cosa sbagliata. Ma è vero, è vero. È verissimo, quello che lei dice è assolutamente perfetto. Ed è da qui che bisognerà ripartire, comunque vada a finire questo mondiale. E in qualunque giorno finisca, speriamo non oggi. È da lì che bisognerà ripartire per una valutazione profonda. Devo dire che dal presidente Abete ho sentito e ho letto, soprattutto nei giorni scorsi, un discorso già proiettato su questo tema. Io spero che poi alle parole seguono i fatti. Grazie del suo intervento, grazie a Filippo Aureggi in regia, a Flavio Suardi in redazione. Ci sentiamo domani e immagino che tra un'oretta o poco più, Brunetta permettendo, in tanti sapremo cosa fare. A tempo di sport.